almeno ci siamo posti il problema, ci siamo avvicinati al problema, ci vogliamo avvicinare al problema e vogliamo che se ne parli. Se ne parli perché una cosa è vedere un'immagine per televisione, ascoltare un'intervista, è una cosa averle a quattro occhi queste persone. Ma ci sono tante cose che non si conoscono pure, capito? È vero, noi siamo in un piccolo paese qua, quindi abbiamo i punti di riferimento sono quelle che conosciamo che camminano per il paese e sappiamo che le badande, ma non è questo il fenomeno. No, non infatti. Non è proprio questa, hai capito? Quindi non è proprio. Io un paio di volte mi sono trovata. Però erano persone che tu non avevi mai visto ed erano di una belle, lasciavano una scia di profumi intorno. Io dico, ma che è passato? E poi comunque poi lo sguardo, la cosa, e io dici, poi i figli, chissà che hanno ingappato, che dove stanno abbiando, capito? Ed erano giovanissime. Giovanissime, però non sapevo di questa cosa. Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Bentrovati da Giulio per Radio Antenna Migrante. È bene precisare fin da subito che quello che state per ascoltare è una puntata un po' diversa da quella che avevamo immaginato. Avremmo dovuto seguire l'evento dal vivo dal titolo Storie di corpi fragili, violenza, diritti negati ed esclusione sociale. Avremmo dovuto incontrare curiosi, professionisti del settore e operatori in un incontro pubblico a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, alla sede della Fondazione La Casa di Anna Laura. Purtroppo in mezzo, come sono sicuro che sapete, si è infilato il coronavirus, e il decreto con le nuove disposizioni per contrastare il contagio e anche un pizzico di responsabilità civile. In poche parole, l'evento, come tanti altri, è stato rimandato ad altra data. L'idea di mettere assieme i temi legati alla violenza di genere, allo sfruttamento sessuale e ai diritti negati di tante donne è venuta perché ogni mattina per andare al lavoro percorro la cosiddetta litoranea, una strada costiera che collega il Cilento con Salerno. Ai bordi di questa strada c'è una pineta, qualche eucalipto, monnezza, sciami di ciclisti in tenuta tecnica, sciami di ciclisti per lo più immigrati senza tenuta tecnica, costruzioni abusive, semplici baracche, campi coltivati per ettari e ettari e tante donne, giovani e meno giovani che ai bordi delle strade si prostituiscono, in qualsiasi ora del giorno e della notte, con qualsiasi condizione meteo e senza pausa nei festivi. Circa un mese fa gli alberi di mimose e dei vivai erano in piena fioritura e l'odore del fiore era davvero persistente. Rendeva l'atmosfera ancora più atroce. Immaginavo i mazzi di fiori regalati a donne più fortunate e quelle povere ragazze che invece erano lì a prostituirsi. Il senso di parlare e portare alla luce questo argomento nel giorno della festa della donna, quindi questo perché. L'evento è saltato, ma ascolterete un'anteprima radiofonica dell'incontro. Per realizzarlo sono andato in pellegrinaggio in ordine sparso in base al percorso che devo fare per raggiungere la sede di lavoro e sono andato a intervistare le ospiti e raccogliere le loro riflessioni. No, quelle che ascolterete sono alcune delle parole raccolte durante le interviste. Che devo fare? Devo leggere dando un poco di tono, come vuoi tu, come vuoi tu. Aspetta che non ero preparata mo per questo, allora vediamo. Palpito di donna, no, non mi piace, cancella. Va bene, tagliare. Tagliare, registro. Palpito di donna. Poco tempo per le mie storie, ho versi persi nella mente. L'orologio non va lento, mi sembra sia dimezzato il tempo e vinca l'incertezza del presente. Troppi volti nuovi. Tanti nomi stranieri, folle in corteo, sguardi di marmo, ombre lungo i muri, braccia tese, sguardi fanciulli, orrori di guerre. Tu, donna, creatura stremata da umane violenze, trattieni il respiro al segnale di terra, conforti tua figlia bambina, fissi lo spazio d'intorno, ultimi lembi di mare, scaldi il cuore che è altrove. Un braccialetto annodato al tuo polso rimanda a un luogo lontano, a ricordi di palme. La luce del sole sarà la tua casa? Al nostro paradiso, forse, manca la chiave. Collanine, solo quelle, in questa terra ritrovi e dei tuoi luoghi ameni han solo le perline. Vorrei tanto farti tornare nel luogo del tuo cuore, a crescere lieta i figli, non per una nuova guerra, ma per una nuova terra. La voce e la poesia sono di Giusy Rinaldi, presidente della Fondazione La Casa di Anna Laura. Mi accoglie nella sua casa piena di libri e di storie. Se dovessi racchiuderla in un solo aggettivo direi vulcanica. È una donna straordinaria, sensibile, attenta e attiva per rendere migliore l'habitat di vita di bambini, ragazze e donne a Vallo della Lucania e non solo. E non è un caso che anche questo incontro sarà ospitato più avanti nella sede della Fondazione. Salgo in macchina e procedo, ascolto alcuni brani al telefono che mi piacerebbe inserire nella scaletta e so già che alcuni saranno assolutamente tagliati per non allungare ulteriormente questa puntata molto densa. Allora, stiamo andando ad Ogliastro, zona gialla del coronavirus per la vicinanza ad Agropoli. Scherzi a parte, comunque a Ogliastro c'è un Siproimi e stiamo andando da Claudia Mitidieri, che è la coordinatrice, sia qui che a Ottati, e le rubiamo un po' di tempo per farle qualche domanda, le domande che avremmo fatto all'evento a Vallo della Lucania. Claudia Mitidieri, coordinatrice dei Siproimi, ormai è questa la sigla ufficiale, Siproimi di Ogliastro, Cilento e Ottati, in provincia di Salerno. Claudia, come vogliamo iniziare? Che ti chiedo? Dimmi tu. Una panoramica rispetto al sistema di accoglienza, perché magari in tanti ancora non conoscono la differenza fra un Siproimi in accoglienza diffusa, in comunità, un CAS, un servizio per minori stranieri non accompagnati. Probabilmente sei la persona ideale che ci può dare queste indicazioni. E qual è poi la condizione delle donne che si trovano magari o da sole, come mamme, con bambini, con le famiglie? È legittimo che ci sia molta confusione sul sistema di accoglienza in Italia, perché è molto difficile anche reperire informazioni coerenti e chiare, e anche perché dal 2017 ad oggi è cambiato tanto il sistema di accoglienza con le varie riforme e decreti. Facciamo chiarezza in maniera semplice: sostanzialmente esiste una transizione dei migranti che arrivano illegalmente in Italia da un sistema di prima accoglienza e un sistema di seconda accoglienza. La prima accoglienza è costituita dagli hotspot e dai centri di prima accoglienza. Gli hotspot sono i centri in cui i migranti che arrivano attraverso le barche vengono trasferiti per l'identificazione, per un primo screening sanitario, e vengono, diciamo, accompagnati alla richiesta d'asilo, la richiesta di protezione internazionale, che è l'unico strumento che consente ai beneficiari, ai migranti, di permanere sul nostro territorio. Poi in teoria dovrebbero essere trasferiti entro 48 ore in centri di prima accoglienza. Ora, su questi centri di prima accoglienza c'è molta confusione, perché si è passata da un sistema di innumerevoli sigle ed acronimi a ora un sistema basato su centri di prima accoglienza regionali. Dovrebbero essere 12 su tutto il territorio regionale. Gli hotspot sono 4, che sono nei centri, diciamo, di sbarco: Lampedusa, Messina, Trapani e Pozzallo. Questi centri di prima accoglienza dovrebbero permanere temporaneamente per poi essere trasferiti nei centri di seconda accoglienza. I centri di seconda accoglienza sono costituiti quindi dagli ex SPRAR, sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che in seguito al decreto Salvini del 2018 e poi divenuto legge a dicembre del 2018 si chiamano SIPROIMI. Quindi prima erano sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, oggi sono sistemi di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Oltre ai SIPROIMI, il sistema di seconda accoglienza prevede i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che sono un ibrido in realtà tra prima e seconda accoglienza. Il SIPROIMI nasce per rendere l'accoglienza dei migranti diffusa sul territorio nazionale e per rendere il sistema di accoglienza più trasparente, perché noi ci dobbiamo ricordare che nel 2017 il sistema di accoglienza veniva etichettato come business dell'accoglienza, c'erano molti un sistema regolamentato non dal pubblico ma dal privato sostanzialmente. Ora, qual è l'intoppo di questa seconda accoglienza? È che l'attivazione dei progetti SPRAR dipende dalla volontarietà dei comuni, degli enti locali di aderire a questo sistema. Ora i richiedenti asilo non possono più entrare nel sistema e quindi ci entrano solo i migranti che hanno concluso l'iter di riconoscimento della protezione internazionale, quindi hanno avuto un esito positivo, oppure entrano nei SIPROIMI le vittime di violenza domestica, le vittime di tratta, chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche, per calamità naturali e per sfruttamento lavorativo. Questi saranno i beneficiari del nuovo sistema di seconda accoglienza. Questo per i migranti, perché poi tra i sistemi intermedi di prima e seconda accoglienza c'è anche una differenza tra personale, equipe, sì, e ruoli che sono all'interno, per cui ricordiamo che nei CAS attualmente non c'è l'insegnamento della lingua italiana, le ore di mediazione culturale sono molto ridotte e si fa un'accoglienza integrata. Come si potrebbe dire per i CAS di pura temporanea, strutturata, ecco, come se fosse un'accoglienza temporanea, che è una transizione in realtà, però poi effettivamente non lo è, perché non è temporanea un'accoglienza che dura, cioè si offre un'assistenza materiale, sì, un'accoglienza materiale sostanzialmente, mentre nella seconda, salto di chi qualità, accede nella seconda accoglienza, sì, passa anche all'interno di un progetto dedicato, di un percorso di integrazione nei diversi territori. In questo scenario qua, le donne che arrivano nei percorsi di seconda accoglienza, come stanno? Allora, ci sono diverse situazioni. Gli ex SPRAR, attualmente SIPROIMI, possono accogliere i nuclei familiari o monoparentali, e poi ci sono servizi specializzati per accogliere le vulnerabilità, che possono essere anche vittime di tratta, oppure persone con disabilità mentali o fisiche, minori stranieri non accompagnati. Quindi anche il sistema SIPROIMI si divide in base ai beneficiari accolti, e proprio per dare per avere un'equipe specializzata poi accogliere quell'utenza. Per quanto riguarda la mia esperienza di coordinamento, io coordino SPRAR che accolgono nuclei parentali e monoparentali. Ora, tutte le donne che arrivano in accoglienza, ma in generale tutte le donne migranti, hanno, dalla nostra esperienza, subito violenze anche multiple, di diverso tipo, che possono essere da aver subito un matrimonio forzato, stupri, torture oppure mutilazioni genitali. Questo non lo dice solo l'esperienza, insomma, in accoglienza, ma insomma i dati rispetto alle migrazioni femminili, perché ovviamente sono la categoria più vulnerabile e più soggetta a subire sopraffazioni e abusi nel corso della loro migrazione. Una violenza che può essere avvenuta nel paese di origine e quindi essere anche il motivo principale di emigrazione e di fuga, può avvenire durante il viaggio e può ripetersi una volta arrivati in Europa. Che cosa riscontriamo rispetto a una donna migrante che nella maggior parte dei casi ha subito una violenza? Una grandissima sicuramente paura e diffidenza. È molto complesso stabilire una relazione di fiducia con una donna che ha subito violenza, ci vuole molto tempo e quindi anche un personale qualificato è capace di sia avere la sensibilità e la capacità coglierla e di accogliere le narrazioni, perché le narrazioni sono tutte differenti, nonostante esistono degli stereotipi rispetto ai luoghi di provenienza di queste donne, in realtà tutte le narrazioni sono differenti. Spesso abbiamo casi in cui una madre fugge dalla paura di morte che vive nel suo paese di origine e allo stesso tempo la necessità di dover garantire un futuro a dei figli che già lascia nel suo paese di origine. In queste donne notiamo una complessità rispetto anche a, oltre alla difficoltà a stabilire una relazione di fiducia, anche nella gestione della maternità, anche per non sentirsi sempre stupide e inadeguate di fronte alla gestione della maternità, delle diverse fasi di crescita. Questo poi immagino che è un qualcosa che tocca a tutte le donne su tutto il pianeta. È chiaro che la difficoltà poi è farlo in un contesto dove non si conosce la lingua, si è completamente da soli, per cui non c'è non c'è mamma che la mamma che ti cucina, la sorella che ti dà una mano, e quindi questa è una grande difficoltà per le neomamme. Per chi è già stata mamma è diverso, perché ha dei ricordi e mette in pratica quello che ha vissuto, quello che ha visto fare. Spesso funziona infatti in accoglienza se c'è chi è già mamma e che fa, diciamo, l'operatrice pari con la neomamma e l'accompagna, magari se di un paese, diciamo, della stessa provenienza oppure dello stesso continente, quantomeno della stessa nazione, si riesce a veicolare in questo modo. E delle criticità o delle cose che ci vuoi portare, che ci vuoi raccontare rispetto magari all'apprendimento della lingua italiana o all'approccio al mondo del lavoro, che forse anche questo può essere, non so, in alcuni paesi una prospettiva nuova che... Sì, questa sì è una cosa di cui volevo parlarvi, perché è una costante nella mia esperienza di coordinatrice, perché quello che dicevo prima rispetto alle storie di violenza che portano le donne migranti, poi in realtà vedo anche, noto in tutte le donne di qualsiasi paese di origine, che sebbene i segni della sopraffazione e della violenza ci siano, in realtà hanno una capacità di resilienza fortissima. Io dico sempre che le donne migranti sono un veicolo di cambiamento naturale, perché soprattutto lo vedo quando arrivano insieme ai loro mariti, compagni, quindi non sono donne da sole ma con il proprio nucleo familiare. Sono quelle più veloci ad apprendere la lingua italiana, sono quelle che si inseriscono nel contesto nuovo più facilmente attraverso legami, relazioni, micro relazioni con le altre donne, le vicine, l'alimentare, la farmacia, hanno proprio una grande voracità nel cambiare, nel capire dove sono, e infatti il nostro lavoro da operatori spesso è quello di trovarsi a fare un gran lavoro di mediazione familiare, perché ci ritroviamo sempre dopo 3-6 mesi dall'inizio dell'accoglienza, dall'inserimento in un progetto SPRAR, ora SIPROIMI, che gli uomini lamentano alle mogli: sei cambiato, non ti riconosco. E loro adeguatamente rispondono: ma è normale che sono cambiata, lo vedi che siamo in un contesto nuovo e ci dobbiamo integrare, ci dobbiamo muovere, perché non abbiamo molto tempo per capire come funziona e come posizionarci. Sei tu che non stai facendo dei passi verso l'integrazione. Quindi è questa dinamica da gestire sempre con grande equilibrio. Claudio, nel caso invece di donne per cui si ha il sospetto o si ha la certezza che siano inseriti in traffici di esseri umani, a tuo parere attualmente l'accoglienza e le modalità di come è costruito lo SPRAR sono adeguate o, visti i numeri, andrebbero potenziate alcune competenze, alcuni servizi, alcuni percorsi di tutela, di accompagnamento, di fuoriuscita, di fuoritratta? I numeri sì, sono importanti, delle potenziali vittime di tratta che arrivano nel sistema di accoglienza. Attualmente gli operatori sono in grado di quantomeno di far emergere la vittima di tratta e siamo formati rispetto ai servizi a cui possiamo accedere per segnalare e quindi strutturare un percorso di accompagnamento di una vittima di tratta e per far emergere la storia di tratta. Questo devo dire che si fa. Ormai, diciamo, considerando i numeri importanti, la casistica è alta, quindi le equip si sono adeguate, si sono formate e hanno imparato a riconoscere dei segnali importanti delle vittime di tratta. Poi ovviamente i numeri però rispetto a un servizio che dovrebbe prendere in carico le donne vittime di tratta, non abbiamo un'accoglienza sufficiente, quindi rimangono spesso nei siproimi e si cerca di esternalizzare però dei servizi, ovviamente di farli fare un percorso comunque affiancato a quello del percorso di accoglienza con delle persone competenti che fanno questo lavoro e sono specializzate a fare quello. Nei casi di grandissima vulnerabilità in cui il siproimi non diventa più adatto come sistema di accoglienza per queste donne, allora si cerca di fare in modo che vengano prese in carico direttamente da un progetto di tratta, perché c'è il rischio, in realtà, quando il rischio è alto, che una donna continui a essere sfruttata anche dai trafficanti anche quando è in accoglienza, allora si prendono misure diverse. Sto raggiungendo Carmen D'Aletta di Libere Tutte allo sportello, sono in un ritardo clamoroso, ma fortunatamente potrei dare la colpa al coronavirus, sperando che Carmen non ascolti questo podcast. Scusa il ritardo, Carmen, ma un attimo comunque. No, io mi sono messa a fare... No, hai fatto bene. Hai detto così, non tardo. Non ci baciamo perché sono indicazioni nuove. No. Ok. Per carità. Carmen D'Aletta, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Carmen D'Aletta è la psicologa per Libere Tutte, di cui poi ci parlerà Alessandra Calatro più avanti. E siamo qui a Salerno, dove in genere si tengono i colloqui con la mediatrice culturale Emi e con le ragazze che hanno bisogno dei vostri servizi. Oltre agli sportelli qua di consulenza, di assistenza e di accompagnamento al percorso dell'antitratta, voi state facendo una serie di attività anche sui territori, sì, rivolte all'emersione e all'accompagnamento ai servizi ad una prima assistenza. Da quanto tempo state andando avanti e la fotografia che avete raccolto finora che cosa ci racconta? Allora, noi praticamente da luglio scorso che siamo sul progetto Libere Tutte e stiamo facendo questa prima parte di azione, cioè quella della sensibilizzazione per gli enti pubblici esterni. Ovviamente le restituzioni sono più che altro molto positive e propositive, perché comunque parlare di elementi come appunto i concetti come la tratta a volte spaventa tanto, anche perché c'è molta confusione intorno a questo concetto tratta. Però ad oggi le restituzioni sono abbastanza positive, anche perché il senso e lo scopo del progetto è quello di far rete con questi primi con appunto il piani di zona piuttosto che gli ospedali, di fare una rete e mettere come obiettivo quello della donna, una donna maltrattata, una donna fragile. Quindi questo è il senso un po' delle nostre sensibilizzazioni. Carmen, si può dire qual è il livello di preparazione che i territori hanno? Allora, purtroppo ad oggi molto scarso, se non abbastanza confusionale, come dicevo prima, sugli elementi tratta, anche perché è un concetto in cui devi preparare la persona, devi lavorare intorno a questa persona che è vittima poi effettivamente della tratta, perché non sempre sono persone che si aprono, non sempre appunto hanno fiducia nell'altro, quindi è la vittima stessa che a volte ha paura. Però ovviamente è importante sensibilizzare la parte del piano di zona proprio per avere un primo aggancio loro e poi man mano inviare queste ragazze a quelle strutture, a quegli enti che appunto possono dare una mano in concreto a queste persone. State notando anche in collegamento con le tue omologhe nelle diverse province, ci sono delle differenze della presenza del fenomeno in aree più urbanizzate o in aree interne? Sicuramente, ad esempio Napoli piuttosto che Caserta sono aree molto più ricche di ipotetiche vittime di tratta, mentre l'area un po' cilentana, dove parliamo appunto di paesini come può essere Pieggine, come può essere Vallo della Lucania, Sapri stesso, Torre Orsaia, hanno realtà comunque molto più piccole, però paradossalmente molto più semplice e facile da gestire, perché le donne in questo caso possono aprirsi con un contatto educativo diverso, uno a uno, e non più una presa in carico con più operatori, può essere comunque una svolta positiva per le ragazze stesse. Quindi sì, però abbiamo un numero minore rispetto in quest'area rispetto a Napoli, Caserta e Salerno stesso. Come proseguono adesso le attività, fino a quando? Allora, il progetto fino ad ottobre, quindi le attività vanno avanti fino ad ottobre, ovviamente con la prima immersione, con tutte le azioni già di Libere Tutte, anche l'aspetto di sensibilizzazione. Ovviamente agli incontri di sensibilizzazione, oltre ai piani di zona, a noi fa molto piacere avere anche gli operatori degli SPRAR e dei CASSI, perché molte volte appunto vanno sempre stimolati, anche se durante l'immersione lo facciamo già con gli operatori, una piccola sensibilizzazione e formazione, però averlo lì in veste un po' più formale è sempre positivo. Arrivato alla sede di lavoro, vengo informato delle nuove disposizioni. Per i prossimi 15 giorni, perché mo uscì il decreto fino ad aprile, pure la roba turn, trasmissioni, code, blocco, tutte cose. Telefono. Sì. Basta i turn. Evitare giri e contatti superflui. Fortunatamente con la radio si può rimediare tramite telefono. E questa puntata, infatti, da questo momento in poi, andrà avanti per telefonate. La sede del Consorzio La Rada a Salerno, quella dove lavoro, è a tutti gli effetti un grande porto di mare. Si lavora con categorie di persone che vanno protette e tutelate, bambini, anziani, giovani, disabili. Lo sforzo è far sì che le attività non si fermino per la cura e l'assistenza di queste persone, che in questo momento di difficoltà hanno bisogno di maggiore supporto. E inizio così il giro di telefonate e ascoltate la voce di Monia Monzo. Abbiamo raggiunto al telefono Monia Monzo. Ciao Monia. Ciao, buon pomeriggio. Monia è vicepresidente dell'associazione Manden e della cooperativa Fare Solidale, e da tempo attiva nell'assistenza alle donne vittime di violenza. Monia, ti chiederei di cosa parliamo quando parliamo di violenza di genere. Per quanto riguarda il fenomeno, diciamo che è un fenomeno in emersione. Quindi ovviamente la violenza di genere viene definita una delle maggiori violazioni dei diritti umani, e nasce proprio dalla prevaricazione di un uomo nei confronti di una donna in quanto donna. Abbiamo una convenzione internazionale, che è la Convenzione di Istanbul, nata nel 2011, che classifica la violenza di genere. Da qui poi sono nate le varie leggi a livello nazionale. Fenomeno è culturale, dicevo. Tanto si sta facendo, sicuramente c'è un'evoluzione anche per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, c'è un'emersione del fenomeno, però è vero anche che c'è ancora tantissimo da fare perché purtroppo lo sentiamo, le donne continuano a morire. Di recente è stato istituito il codice rosso, diciamo che c'è una fase di adattamento a quello che è un sistema abbastanza complesso che manifesta anche qualche criticità, però questo fa anche intendere come si stia cercando anche dal mondo istituzionale di lavorare contro quello che è un dramma. La base della violenza è proprio culturale, a parte, va bene, l'abbiamo visto anche nel nostro sistema legislativo, con il codice Rocco, fino agli anni 80 c'avevamo il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, comunque si legano ad una forma di violenza di sopruso nei confronti di una donna. Il punto è questo: la violenza è chiusa nelle case, nelle nostre case, la violenza domestica è molto presente. A volte si fa anche fatica a riconoscerla, perché se non parliamo di botte, e parliamo per esempio di violenza psicologica, c'è un modo anche di esprimersi che è reiterato poi nel tempo, crea anche quei danni nei confronti di chi lo subisce, che sono le donne in prevalenza, ma anche i bambini che vivono il fenomeno della violenza assistita e che comunque genera i danni proprio perché è continuativo, cioè non è un fenomeno isolato come un'aggressione che va comunque condannata, ma va avanti nel tempo e quindi destabilizza, destruttura chi la vive con tanti danni da un punto di vista psicologico, ed è anche la violenza più difficile da dimostrare, tra l'altro, perché un livido lo puoi mostrare, i È qualcosa danni che in si territori vede, si sì, vede. certo. Infatti tante donne hanno paura di non essere credute se non ci sono le botte, non ci sono i lividi, perché è chiaro che tutto si basa sul racconto, sulla narrazione. Però io dico che una donna che la vive la violenza sa come raccontarla. Noi che facciamo questo lavoro da tanti anni e siamo abituati, riusciamo anche a riconoscere quei casi reali da altre situazioni che poi non sono, vanno inquadrate come relazioni disfunzionali, come può essere un conflitto legato alla fine di un matrimonio, ma che non rientrano in quella fattispecie. Noi abbiamo un territorio che comunque sta cominciando ad esprimere, ovviamente come in tutta Italia, perché c'è un quadro non è neanche nazionale, è mondiale, è un problema di natura mondiale che manifesta comunque la presenza di questo fenomeno. Il territorio a E cui fai riferimento è è il parte della provincia Cilento, di Salerno, del di Cilento. Salerno, sì. Che è appunto composto da paesini molto piccoli e poco abitati, quindi Diciamo che c'è una differenziazione tra le aree un po', aree montane un po' più chiuse e quelle insomma costiere, almeno rispetto ai numeri che noi abbiamo, perché negli ultimi 2 anni io mi sono occupata fino al 31 dicembre proprio di coordinare il centro antiviolenza che avevamo qui sul territorio, e abbiamo superato i 100 casi in 2 anni, quindi un po' Mamma una mia. piccola statistica possiamo già tracciarla. Abbiamo fatto tanta sensibilizzazione, tantissima, proprio per cercare di portare le donne a trovare il coraggio di raccontare. Non tutte denunciano, ma a volte non è neanche necessario dover per forza denunciare da un punto di vista penale, ma quantomeno riuscire ad allontanarsi da quella che è una realtà di malessere legata poi alla violenza subita. E si collega quello che dici alle parole che abbiamo ascoltato da Carmen D'Aletta, la psicologa di Libere Tutte, rispetto ai fenomeni di tratta sul territorio, per cui collegandolo anche al coronavirus sembra che come il coronavirus più si fanno tamponi e più Emerge. emergono i casi e anche in territori più marginali della provincia o del territorio campano, sembra che poi emerga questo, cioè quando si va a intervenire, quando si fa sensibilizzazione o immersione del fenomeno, non esistono isole felici e non ci sono territori che sono geograficamente immuni da questo fenomeno e da tutto quello che ne consegue. Monia, io ti ringrazio e chiaramente ci vedremo di persona nella data fissata dell'evento e niente, grazie per il Veramente, lavoro sì, che fai tu con grazie a le tue voi. collaboratrici nel Grazie, territorio. grazie mille. Buon pomeriggio. Ciao. Proseguo poi con Alessandra Galatro, un faro per chi si occupa di tratta. Ascoltarla è ogni volta molto istruttivo e affascinante. La sua passione e il suo pathos sono travolgenti. Il pomeriggio, trascorso con i colleghi a valutare i servizi più utili per il lavoro da remoto, mi crea l'illusione di vivere in un mondo col 5G e tecnologicamente avanzato. Così mi azzardo a fare la telefonata ad Alessandra Galatro in auto. Mai scelta fu più sbagliata. Siamo stati al telefono circa un'ora perché la linea continuava a cadere e quelle che ascoltate sono gli estratti che si sono riusciti a salvare. Giulia. Pronto? Uè. Ciao Alessandra, sei in diretta su... Ciao. In diretta? Sì, sei in diretta su Radio Antenna Migrante. Non Giulia. Non lo monti dopo? Sì, lo monto dopo. Ah, ecco, quindi puoi anche tagliare, fare Taglia, di possiamo giocare. dire le... Alessandra Galatro, buonasera. Ciao, buonasera. Alessandra Galatro è la coordinatrice del progetto Libere Tutte e Fuori Tratta per Arci Salerno. Lo scenario che si è aperto finora, ascoltando anche gli altri interventi che ti hanno preceduto, è molto, molto ampio, sia rispetto ai numeri, sia alla diversità di come il fenomeno si espande su, è presente sul territorio della provincia di Salerno e sul territorio regionale. Come coordinatrice vorrei chiederti di descriverci questi due progetti, quali sono poi le iniziative messe in campo da Libere Tutte e da Fuori Tratta. È una domanda da un milione di dollari e hai pochi minuti per farlo, me ne rendo conto e me ne Mamma scuso, mia, ma tu sei la impressionante, sì. persona adatta per rispondere a No, questo. no, assolutamente no, Giulio, anzi, non, innanzitutto ti ringrazio, insomma, per la stima e per avermi invitato innanzitutto a questo evento. Spero che ci sarà poi occasione di farlo Io in me lo futuro. auguro il 16 marzo, Sì, finita la... ok. finito Se tutto il finisce il marasma. 16 Se è il marzo. 16 marzo, lo sto sperando. E speriamo che finisca, insomma, Sì. limitando, perché sta diventando abbastanza pesante anche nel nostro ambito, insomma, noi siamo stati Assolutamente sì. costretti a rimodulare, a limitare determinate azioni fondamentali del nostro progetto e anche per le ragazze che abbiamo in accoglienza ci poniamo molti quesiti interrogativi rispetto alla tutela e come poterle in qualche modo assistere e guidare in questa fase che per loro crea anche abbastanza confusione e anche abbastanza, voglio dire, pressione, perché comunque anche da parte anche in Nigeria, perché noi accogliamo gran parte di ragazze, soprattutto nigeriane, e anche dal loro paese iniziano ad arrivare le telefonate per chiedere, insomma, com'è effettivamente la situazione. Quindi anche loro abbiamo dovuto fare anche dei momenti formativi, informativi e cercando di rassicurarle rispetto a tutto quello che stanno assistendo in questo momento. Niente, vabbè, tu mi hai fatto una domanda veramente molto molto difficile e complessa. Ovviamente è riduttivo dire che la tratta di esseri umani è un'attività criminale che rende schiavi milioni di persone. Ma non solo donne, ma anche bambini, ed è comunque anche uomini, ed è comunque un fenomeno complesso e in continua evoluzione, che comunque si configura come una grave violazione dei diritti fondamentali della persona. Diciamo che come ARCI Salerno siamo impegnati da tanti anni rispetto quindi alle azioni di contrasto al traffico di esseri umani. La nostra, che iniziò come un'attività, insomma, soprattutto riguarda, che aveva a che fare all'inizio solo con un'unità mobile che in pratica percorreva le zone che collegano Salerno ad Eboli, Capaccio, Paestum, in cui noi facevamo appunto e facciamo attualmente anche oggi un'attività di ascolto e cerchiamo di contrastare quella che noi chiamiamo in gergo riduzione del danno, cercando appunto di orientare le ragazze quindi alla tutela sanitaria, legale, eccetera. E tra l'altro con la nostra azione cerchiamo appunto di spiegare, di dare alle ragazze la forza per uscire, per fuoriuscire dal circuito di sfruttamento e autodeterminarsi, insomma. Ci lavoriamo da tanti anni e abbiamo avuto poi l'esigenza, quindi prima come il progetto madre, tra virgolette, che è Fuoritratta, che quindi si svolge su scala nazionale con fondi del Dipartimento delle Pari Opportunità, e poi abbiamo deciso di ampliare la nostra azione con il progetto Libere Tutte, perché poi siamo arrivati a un certo punto in cui gli arrivi, soprattutto 2016-2017, ci hanno completamente travolti e da soli, insomma, con il progetto Fuoritratta non riuscivamo a far fronte ad un enorme problema che stavamo riscontrando, perché siamo in pratica tutto il circuito, tutte le donne che erano appunto accolte nel circuito dei richiedenti asilo erano anch'esse vittime di tratte, perché a un certo punto i trafficanti hanno iniziato a usare le rotte e quindi a far arrivare sulle nostre coste le ragazze, insomma, vittime di tratta insieme gli sbarchi di cui tanto abbiamo parlato negli ultimi anni. Quindi a quel punto noi abbiamo voluto dare una forza maggiore per poter appunto aiutare più donne, perché tantissime poi sono stati aperti moltissimi centri di accoglienza nelle nostre province, quindi c'era bisogno appunto di ampliare la nostra azione per cercare di dare ascolto e voce a più donne possibile. Un elemento che è emerso anche nelle altre interviste che abbiamo fatto è di come quando si trovano i mezzi, le possibilità e i servizi, quando si accendono i riflettori su certi fenomeni, è chiaro che i numeri cambiano e ci si rende conto che non esistono isole felici che sono immuni da certe dinamiche. Il problema è poi avere la capacità di gestire i numeri che via via crescono. Da questo punto di vista, allo stato attuale, Giulio, servirebbe. a volte io tantissime volte ho usato in questi tanti anni di attività una frase: noi in realtà è come se stiamo svuotando l'oceano con un cucchiaino, per dirci, insomma, i numeri. È vero anche che noi sono diminuiti gli sbarchi in Italia, ma è anche vero che il traffico degli esseri umani non finisce così sempre in modo semplice. Sicuramente i trafficanti trovano e studiano altri modi per poter far arrivare le vittime in Europa. E questi, a volte, insomma, questi nuovi modi, insomma, vabbè, attualmente diciamo anche questo col coronavirus, credo che abbia anche una sua influenza, tra virgolette. Questa la può tagliare, Giulia. Che senso, scusa. Nel senso che comunque, allora, così come in passato, le donne vittime di tratta arrivavano via aereo, no? Quindi, o attraverso altre, quindi facevano scalo in Olanda o in Spagna per poi arrivare in Italia, oppure erano direttamente a Milano o a Roma. Quindi in quel caso il debito contratto dalle donne più alto rispetto a quello che, di cui abbiamo poi, cioè, voglio, passiamo, stiamo, stiamo parlando di Qui un inizia debito che potessi un'interminabile liberare caduta molto molto alto, perché di linea, effettivamente poi i ci costi dei chiamiamo più volte, Alessandra trasporti sta spiegando sono il anch'essi alti, collegamento che comunque c'è c'è fra tutta una questione che ha a che fare con il la valore produzione del di documenti viaggio, il debito falsi, che le e ragazze quindi accumulano di e il visti, tipo e di le ragazze, viaggio quindi il che loro debito queste aumenta devono anche affrontare in misura essendo trattate relativamente a questa, tutta come pura l'attività. merce. La Dei conversazione si fa documenti per poterle far difficoltosa arrivare in e modo Alessandra regolare, tra virgolette. prosegue il suo Quindi, racconto sicuramente i inarrestabile. trafficanti stanno negli ultimi, da quando gli sbarchi, e quindi molte persone ancora purtroppo sono detenute nei centri di detenzione libici, molti trafficanti. strutture. Lavorare con una donna vittima di violenza non è molto editata, soprattutto non è un lavoro molto semplice, perché in realtà negli ultimi anni soprattutto abbiamo visto due fenomeni contemporaneamente: l'abbassamento dell'età delle ragazze vittime, da un lato, e soprattutto anche il fatto che molte di loro, insomma, i metodi di coercizione sono stati sempre molto violenti, ma negli ultimi anni, anche insomma, per quello che hanno subito in Libia, le ragazze che arrivano da noi raccontano comunque storie di una violenza molto molto forte e hanno subito molti molti molti traumi, sono state per molti tempo in connection house, in centri di detenzione in Libia, ma anche i metodi con i quali sono stati sfruttati e tenute soggiogate in Italia sono stati molto violenti. Quindi abbiamo ascoltato tantissime storie nell'ambito sia dello sportello tratta, ma anche e soprattutto con Libere Tutte, perché con Libere Tutte abbiamo avuto uno spazio anche più ampio per poterle ascoltare, accogliere e supportare. E ci siamo resi conto che in realtà non ci troviamo di fronte sicuramente a ragazze giovanissime che non erano neanche consapevoli di essere delle vittime. Quindi e molto spesso abbiamo riscontrato in loro una totale rivalsa nei confronti degli aguzzini, dei propri aguzzini. Quindi perché in qualche modo è come se loro, soprattutto nel caso delle nigeriane, loro proprio perché le avevano aiutate ad arrivare in Italia, dove avrebbero potuto aiutare le loro famiglie e quindi crescere in Italia, erano meritevoli di qualche Di riconoscenza. riconoscimento, di Sì. riconoscenza. Quindi in realtà, quindi nonostante sono portatori come dire, di storie molto pesanti dal punto di vista portatrici, scusami, di violenza, loro non riescono a reagire a quella la violenza subita e quindi a non opporsi a nessuna delle C'è violenze che l'incapacità subiscono. anche a vederla e a raccontarla come Assolutamente, violenza, come consapevolezza. assolutamente. Sì, assolutamente. È cambiato, tu sei una persona che nel campo c'è è attiva da tanto tempo. È cambiato nell'ultimo periodo, al di là dell'escalation di violenza e delle modalità di arrivo, anche nelle modalità di prostituirsi, mi riferisco al lavoro che si può fare su strada o rispetto alla prostituzione in casa, Assolutamente sì, indoor. sono cambiati i luoghi del loro sfruttamento, infatti soprattutto nelle zone voglio dire, non mi viene il termine, Giulio, aiutami. Quelle più dense, più cariche di Nei persone, comuni nei limitrofi, comuni. no? Non proprio a Salerno, insomma, ma soprattutto per dire nell'Agro Nocerino Sarnese o così come insomma, in molte zone Nell'hinterland. del Hinterland oppure nelle zone un poco più insomma, della provincia, più sperdute della provincia, ci sono appunto determinate le cosiddette connection house e quindi c'è l'aumento dello sfruttamento Ancora un indoor, certo. buco sulla linea, proprio mentre mi sta descrivendo come è cambiato il lavoro di chi si occupa di tratta di esseri umani negli ultimi anni. La prostituzione in strada è quasi del tutto scomparsa e si è spostata in club privati abusivi dove queste ragazze vengono agganciate dai clienti o in connection house, case private, rendendo il lavoro degli operatori molto complicato, perché non si riesce poi ad avere il contatto diretto, l'aggancio con le ragazze. Quanto frutta il mercato della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale, Allora, attualmente? Che dati ci sono? sì, ma che a livello globale parliamo di circa i guadagni annuali dei trafficanti superano i circa 35 miliardi di dollari. E secondo il Ministero dell'Interno, la tratta di persone costituisce la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali, dopo il traffico di armi e di droga. In pratica parliamo di circa per 300 mila euro al mese nelle casse della Camorra, campana. Sì. E E 50.000 di questi 300.000, 50.000 euro vengono reinvestiti poi per la in droga in armi del racket internazionale. Mentre proteggere una vittima costa circa 12.000 al nostro governo, appunto con il piano nazionale antitratta, circa 12.000 euro all'anno. Quindi potrebbero investire, appunto, perché però sono soldi, molti soldi sono sottratti in mano alle camorre e alla mafia. Mamma mia, siete proprio due. Cioè, veniva acqua a me da 10 minuti, avevamo già fatto. Infatti, Alessandra, la domanda l'ultima veloce è, le ragazze Sembra che non ho detto niente. dopo un percorso così lungo, quali prospettive si aprono davanti a loro in un percorso come quello che hai descritto? Questa è la domanda più difficile, Giulio, che questa è effettivamente. Guarda, noi appunto le nostre attività, soprattutto con Libere Tutte, è finalizzata all'emissione, l'ascolto e poi l'assistenza delle donne vittime di tratta. Però il nostro lavoro non è solo quello. Secondo me la parte più importante di questo progetto è il fatto che noi non ci limitiamo all'emissione e all'ascolto, ma per dare voce e una dignità ad una vittima, l'aiutiamo a ridisegnare la propria vita. Lo facciamo con questo progetto attraverso, mettendo in campo alcune delle azioni che sono finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo e quindi soprattutto ad un percorso di autonomia che vada a limitare appunto il rischio della ricaduta o di vecchi o di nuovi sfruttatori. Quindi no, un'attività fondamentale del progetto Libere Tutto è appunto il sostegno all'autonomia e soprattutto e l'abbiamo previsto facendo con l'attivazione di 60 borse di integrazione sociale, dei reali contributi economici per a disposizione delle beneficiarie per iscrizione ai corsi di formazione professionali e tutte quelle attività a volte poi ha bisogno di integrazione e di socializzazione e delle borse lavoro che appunto per introdurre le donne appunto nel mondo del lavoro. Questa attività è svolta attualmente da Misteri Campanio che recluta le aziende su vari territori e poi in qualche modo quindi fai questi colloqui con le beneficiarie cercando di far emergere le loro appunto le loro conoscenze, la loro formazione, le loro propensioni. E quindi su ogni ragazza viene strutturato un percorso, un programma individualizzato di inclusione e cittadinanza che è mirato soprattutto all'autonomia lavorativa e abitativa. È un obiettivo molto arduo, devo dire la verità, perché comunque per arrivare poi a una vera e propria integrazione, innanzitutto c'è bisogno appunto di un sostegno, anche dal punto di vista psicologico, per aiutarle a superare e a far emergere e a farle rendere appunto consapevoli di quanto dei traumi subiti. Ma è anche un lavoro un po' molto difficile, appunto, perché molte delle ragazze su cui noi lavoriamo hanno scarsi strumenti di base, però è una sfida molto molto importante. Io credo molto in questa parte del progetto, nel senso che credo che sia questo il nostro fine ultimo, appunto rendere le donne consapevoli appunto di aver avuto una storia particolare, ma donne che sono poi in grado di riprendere in mano la propria vita. Facciamo nostro il messaggio di speranza di Alessandra, facciamo un grande augurio a tutte le donne che ci stanno ascoltando e anche a quelle che non ci ascolteranno. Fissata la data dell'evento, ci avremo modo di ritornare sull'argomento. Buona giornata a tutti, un saluto, ciao! These are the words of my mother. As I'm getting old, even now I remember. So I'm packing all my tools, I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be caught with an old school fool. He told me he was a banker, not knowing bank robber. This man is a gangster, bukum bankum boxer. Oh sorry I no pa, badambo badambo. A we are. Shaka nigga janko. Now he dey beat me every night and day. Mami shay, he used to want me, but I didn't wanna know. Mami shay, mami show, mami shay, mami show, mami shay, mami show. She nea cry no dey hear me. Now pikin no dey hear mama, pikin no dey hear papa. And then kwa da yaba.